Siamo qui al VAG 61 con Percy Bertolini, che presenta la sua mostra che ho scoperto, che parla di Ancona, e ho trovato subito una cosa in comune perché io sono di Senigallia e sono marchigiana, quindi abbiamo trovato subito un punto in comune. E come parli di questa città? Allora, diciamo che io sono partita per fare questo lavoro con un racconto autobiografico, cioè tutto è nato così, cioè, praticamente io non scrivevo da molto tempo, no? Perché utilizzavo come mezzo espressivo soltanto il disegno e la pittura, perché vengo da una formazione pittorica, quindi era tanto che non scrivevo più. Quando ho iniziato a scrivere, praticamente avevo questo tavolo pieno di illustrazioni sciolte. Ne ho scelta una che mi ricordava un grosso ospedale. Illustrazioni non fatte da me. Ho preso questa illustrazione che mi ricordava un grosso ospedale e ho cominciato a sperimentare la formula del monologo. E mi sono ricordata comunque di... comunque sia tutta la mia adolescenza l'ho passata in mezzo anche a tanti ospedali che sono comunque un luogo particolare, e ho cercato di raccontare qualcosa di relativo a questo ospedale. È venuta fuori un ricordo appunto d'adolescenza di questa infermiera che la sera, quando aveva staccato il turno, prendeva me e altre ragazze adolescenti piccoline e ci portava a mangiare gelato fuori nel cortile dell'ospedale. Però era un po' un connubio di elementi contrastanti, perché c'era il gelato e però stavamo davanti all'obitorio, quindi cioè, tipo, io guardavo questa luce sul muro che è rossa, che era tutta bella, tutta circondata da gechi, però era rossa perché dentro c'era qualcuno che era morto, e quindi cioè, è venuta fuori questa narrazione così. Poi l'ho lasciata lì un annetto sedimentare, perché forse la mia adolescenza è ancora troppo recente, quindi avevo bisogno di tempo, e dopo diciamo un anno mi sono messa a lavorare su sta storia, scrivendo prima con i disegni e quindi cominciando a disegnare prima la città e poi passando al resto. Per ricordare bene tutto il percorso anche dei miei pensieri di quando avevo 13 anni, sono andata proprio fisicamente ad Ancona e ho fatto tutta la strada che facevo, facendo anche delle foto per strada, e poi però mi sono resa conto che comunque sia l'architettura, diciamo, anconetana non bastava per spiegare, diciamo, quella che era la mia realtà, il mio mondo, e quindi da questo ho creato un mondo parallelo che è fatto di palazzi che non stanno solo ad Ancona, ma stanno sparsi in giro per il mondo. Quindi ho tipo disegnato palazzi che stanno a Berlino, in Brasile, in Polonia. Quindi la storia è ambientata ad Ancona, ma in realtà è ambientata anche in una città della mente immaginaria. Sì. Quindi fai un po' anche il giro del mondo. Sì. E Bologna invece la disegni mai? Bologna l'ho disegnata dentro questo libro, non lo so, mi mancava magari un'inquadratura, una tavola così, e quindi scendevo giù in strada e quindi magari facevo due foto a qualcosa, e poi quindi c'è anche dentro Bologna, proprio un labirinto. Un labirinto di città diverse tra loro. Non so da quanti anni abiti qui a Bologna. È da 7-8 anni. Ok, come me, perfetto. Preciso. Io in questi anni l'ho vista cambiare veramente molto. Parlavo prima con Paolo Bacilieri per fare un collegamento tra Bologna e Milano, quanto il fenomeno della gentrificazione si è visto qua, anche semplicemente andando per via Zamboni o via Petroni. Sì, decisamente. Come vedi tu questo fenomeno? Quanto pensi sia cambiata effettivamente questa città? È tantissimo, a me già dispiace non aver vissuto Bologna negli anni 80, negli anni 90, perché comunque sia mi immagino questa città piena di artisti, di correnti, di fumettisti, di persone che si incontrano per le piazze, invece adesso no, quindi, sì. Quindi già mi dispiace essere arrivata così tardi, e poi no, bruttissimo, comunque sia più passa il tempo, più diciamo che è una città che ti fa sentire a disagio. È sempre più respingente, cioè questi posti che vengono riqualificati in realtà per me sono sempre più respingenti. Assolutamente. E sono sempre più che posso starci solo se consumo, quindi cioè sempre più, come dire, d'élite, no? Assolutamente. E poi il quartiere specifico dove abito in questo momento, anche se ho girati praticamente tutti, perché ho cambiato 8 case parecchio così, perché è proprio un quartiere, diciamo, molto ricco e quindi, e io quando scendo giù di casa, anche solo per buttare l'immondizia, sento proprio il controllo. Cioè, so che c'è la signora con i barboncini, col cappottino, che mi sta controllando come sono vestita, quanto sembro matta, che scarpe da ginnastica ho messo. Ti capisco molto bene. Io ho abitato in via Castiglione per i primi 2 anni in cui stavo qua a Bologna, e la sensazione era proprio questa, di vivere in un micro mondo, in un microcosmo in cui venivo sempre guardato un po' dall'alto in basso, ecco, diciamo così, semplicemente. E adesso si parlava di bolognina invece, e mi dicono in tanti come sia un paradiso per certe cose, come questo non ci sia assolutamente. Non so se tu hai mai abitato in Bolognina. L'hai riscontrata questa cosa? Allora, pensate, io abitavo in Bolognina anni fa e stavo, non so se la conoscete, dentro casa di MP5, no? Artista, street artista, molto brava. Però l'ho vissuta prima della sua gentrificazione e mi ci trovo molto bene. Adesso, cioè, lì ci vado soltanto, per esempio, per giocare a calcetto, però appunto non lo so, non c'è idea, anche perché mi dispiace, ma questi ultimi anni l'ho passati chiusa in casa a disegnare immagino. Dove ti possiamo trovare? Dove sei? Perché ho fatto delle ricerche prima di venire qua, ma devo dire che ho trovato un po' di difficoltà. Lo so, non sono molto sui siti, non sono, diciamo che la parte della promozione del mio lavoro ancora non mi appartiene, quindi ci sono un Instagram che aggiorno in maniera molto spontanea tutti i giorni, che è Percy Bertolini. Facebook ogni tanto, anche se lo uso sempre meno, perché Facebook ovviamente sappiamo che tutte le immagini che entrano dentro Facebook diventano automaticamente di Facebook, quindi è un po' pericoloso, quindi per le immagini uso più Instagram. Certo, immagino, no, poi stai parlando con una persona che di social proprio ne sa meno di zero, quindi ti capisco. Collabori con delle realtà bolognesi? Allora, io per realtà, diciamo che sono attivista in una di meno, prima lo ero in Favolosa Coalizione, collaboro con Edizioni Minoritarie, che è una casa editrice neonata di una mia amica adesso, e ho lavorato ogni tanto, ho fatto qualche illustrazione per il Cassero, per la Falla, tanti anni ho bazzicato, diciamo, lo Spazio Elastico aiutando, facendo installazioni di mostre. Perfetto. Grazie mille per la tua disponibilità, grazie veramente. Prego.